Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Claudio Puglisi dello Scrittoio, che distribuisce il documentario Voyage of Time, il cammino della vita di Terrence Malick, al cinema da giovedì 3 marzo 2022. Ben trovato! Ben trovati a voi! Lo raccontiamo a chi ci ascolta brevemente? Sì, distribuito da Double Line in collaborazione con Lo Scrittoio, ennesima prova nel distribuire un cinema d'autore che non sempre trova adeguato spazio nelle sale. Qua ci troviamo al cospetto di un documentario però un po' anomalo rispetto a quello che lo spettatore si può attendere. Non vi è una volontà didascalica, è stato fatto un enorme lavoro dal punto di vista degli effetti visivi, degli effetti digitali, si sono usati mezzi tecnologici che, considerando che il documentario è stato pensato e iniziato a realizzare qualche anno fa, molto molto all'avanguardia, e vogliono raccontarci in qualche misura la storia del nostro pianeta, per cercare di dare un senso a quella che è la nostra presenza sul pianeta, che cos'era prima che arrivasse la mano dell'uomo, che cosa la mano dell'uomo può procurare e qual è il rapporto appunto fra uomo e natura e fra il pianeta Terra e l'universo più in generale. Non c'è una narrazione precisa, non c'è una storia da raccontare, ecco, questo è importante dire. Beh sì, si abbandona di immagini e sonoro in questo senso. Il primo e unico documentario di Terrence Malick, coprodotto da Brad Pitt, la voce narrante di Cate Blanchett. Esattamente, entrambi artisti che nella loro carriera insomma hanno più volte espresso posizioni legate all'impegno civile, all'ambientalismo, in questo caso danno entrambi proprio corpo a quello che è il loro impegno. Si sono addirittura alternati, ne esiste una versione di questo film ridotta di solo una quarantina di minuti dove si sono anche dati il cambio, no? E nella versione ridotta, non quella per la sala cinematografica, quindi addirittura in quel caso era stato Brad Pitt a fare da voce narrante, a testimonianza appunto ancora una volta dell'impegno di entrambi questi artisti. È del 2016, è arrivato solo ora per qualche tipo di difficoltà? No, sicuramente la difficoltà di questo tipo di cinema è trovare degli adeguati spazi e il pensiero spesso e volentieri che questo tipo di cinema non abbia una casa, non abbia un pubblico, cosa che sempre più spesso riscontriamo invece non essere. Sicuramente la pandemia ha contribuito a rallentare i tempi, per cui già probabilmente sarebbe uscito un paio d'anni dopo, 2 anni e mezzo dopo il momento in cui era stato realizzato e prodotto. La pandemia ha contribuito a metterci un altro paio d'anni, un altro paio di mattoncini di tempo tra la sua realizzazione e la sua distribuzione. In ogni caso è parso a Double Line che fosse pazzesco che un lavoro di questo genere, che era passato da Venezia, dal Festival di Venezia appunto qualche anno fa, non potesse ritagliarsi uno spazio all'interno della distribuzione dei palinsesti e dell'organizzazione delle sale cinematografiche italiane. Cosa vi ha convinto di questo lavoro? Secondo me, che per esempio ho assistito alla proiezione stampa a Roma, forse è la cosa che più riassume la volontà di far vedere questo film agli spettatori, è stata un commento di un addetto ai lavori che all'uscita ha detto: questo film è la spiegazione perché esistono dei mezzi per proporlo al pubblico diversi, da una parte il piccolo schermo e dall'altra la sala cinematografica. Ci sembrava pazzesco che questo tipo di lavoro nato, pensato, creato per la sala cinematografica e per tutto quello che può regalare in termini di coinvolgimento allo spettatore, dovesse rimanere confinato un domani ai soli piccoli schermi di computer o addirittura di telefono, dove evidentemente perde oltre la metà del suo potenziale. Che tipo di distribuzione sarà? Quante sale? Diciamo innanzitutto che per essere appunto una distribuzione assolutamente indipendente sta trovando un ottimo riscontro da parte delle sale, perché saranno oltre una trentina quelle di partenza che ragioneranno non tanto e non solo, come spesso avviene col documentario, in termini di singola proiezione, ma proprio di programmazione, di tenitura, quindi di susseguirsi di spettacoli nel corso di una settimana. Quantomeno altrettante sono già coinvolte semplicemente nell'attesa di riuscire a trovare appena dopo un varco, e sono convinto che numerose altre se ne potranno trovare, perché diciamo che tutti gli indicatori, parlando con gli esercenti quotidianamente, ci dicono questo. Poi è ovvio che quanto più il film sarà in grado di far capire che può funzionare, tanto più saranno portati loro a sceglierlo, soprattutto in un momento per tutti difficile come questo, dove certamente la sala cinematografica, al di là di essere un operatore culturale, ha comunque necessità di incassare, di guadagnare dopo due anni molto difficili. Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni? Intanto seguiamo attraverso le pagine social di Double Line, dello scrittorio, il sito internet dello scrittorio www.scrittorio.net, il sito internet di Double Line e attraverso i social soprattutto quella che sarà la programmazione nelle sale. Comunque posso già dire sin d'ora che fin dalla prima settimana le principali città italiane, da Milano a Roma, a Napoli, Firenze, a Bologna, a Torino, saranno certamente coinvolte nella distribuzione del film. Il documentario Voyage of Time, il cammino della vita di Terrence Malick al cinema da giovedì 3 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Claudio Puglisi dello scrittorio che lo distribuisce. A presto! Grazie a tutti voi e a presto, spero a presto. Grazie ancora. Con Giorgio Gosetti della Casa del Cinema per presentare il film Belfast di Kenneth Branagh al cinema da giovedì 24 febbraio 2022. Ben trovato Giorgio. Buongiorno a voi. Come lo racconteresti questo film? Un classico racconto di formazione per un verso, perché è la storia di un bambino di 9 anni a Belfast nel 1969, quando diventa praticamente guerra civile la frattura in nome della differenza religiosa fra cattolici e protestanti all'interno dell'Irlanda del Nord, la racconterei come in qualche modo una fiaba oscura, perché il punto di vista, l'occhio è quello di un bambino e Branagh è molto attento a dare questo senso al suo modo di vedere la storia. La racconterei come una storia d'amore, perché nel momento in cui si hanno i primi fremiti amorosi, il piccolo protagonista di questa storia ha anche il primo piccolo fremito di passione per quella che poi sarà la passione di Branagh, cioè il cinema, il teatro, l'arte in assoluto, e la racconterei infine come un racconto autobiografico, perché in modo molto scoperto l'irlandese Kenneth Branagh, nato nel 1960, si riproduce, si riguarda dentro quel bambino che guarda il mondo nel 69. Cosa ti ha convinto maggiormente? Allora, io qui devo fare una piccolissima parentesi di tipo personale. Molto, molto, molto tempo fa, stiamo parlando del 1995, Kenneth Branagh, che ha alle spalle già una buona esperienza di cinema, perché 6 anni prima ha stupito tutti con un Enrico V diretto, voluto e interpretato, che sfidava Laurence Olivier, cioè il suo maestro, sul suo terreno shakespeariano, poi ha alle spalle un classico giallo noir all'americana come L'altro delitto, un film di tipo generazionale come Gli amici di Peter e una conferma molto hollywoodiana nel taglio della sua passione shakespeariana come Molto rumore per nulla, e poi ancora un Frankenstein di Mary Shelley, in cui va a sondare il territorio del cinema di genere e d'autore, sbarca a Venezia con un piccolo film. Il fatto personale è che io a Venezia in quell'anno lavoravo e quindi quel piccolo film mi capitò sotto gli occhi prima che poi venisse selezionato e rivelato al pubblico. Il piccolo film si chiama Nel bel mezzo di un gelido inverno e forse per ragioni di simpatia personale e forse per correttezza da critico continuo a pensare che sia uno dei risultati più alti di tutta la filmografia di Branagh. Nel bel mezzo di un gelido inverno, che è un film di ripensamento shakespeariano, nel senso che è dedicato e racconta una troupe d'attori teatrali, è un film in bianco e nero, come Belfast, è un film di sentimenti, come Belfast, è un racconto di formazione, in qualche maniera, anche se lì stiamo parlando di giovani adulti e non di ragazzini, come Belfast, e quindi il nuovo film, secondo me, si riallaccia molto intimamente a quell'esperienza, che è un piccolo piccolo film ma che consiglio a tutti se possono recuperarlo da qualche piattaforma o da qualche mezzo ormai antidiluviano come il DVD di ritrovare, perché ci troveranno il meglio di Branagh, come ce lo trovano in Belfast, che secondo me è un film splendidamente riuscito. E quando dico splendidamente riuscito lo dico perché dentro c'è tutta la sincerità e la ruffianaggine del regista. Vi faccio un esempio, tanto per dirla subito. Come si apre Belfast? Si apre con l'inizio di una splendida colonna sonora, in parte anche cronologicamente modificata, nel senso che alcuni dei pezzi che usa sono stati scritti ed eseguiti dopo il 69, e si apre con una splendida serie di totali in un smagliante Technicolor della Belfast di oggi. Il che ci dice, in qualche maniera, poi rifarà alcuni totali in bianco e nero della città, che il suo racconto è cronologicamente molto ben preciso, è datato subito 1969, ma contemporaneamente è astorico in qualche maniera, perché le riprese iniziali, volutamente a colori, parlano della Belfast di oggi, in fondo. Quindi è come se ci fosse un tempo sospeso, ed è una dichiarazione di principio di intenti, cioè un pensiero sul cinema, quel passaggio a colori per poi andare sul bianco e nero, ma è anche una grande ruffianaggine, nel senso che lo spettatore di oggi non è abituato al bianco e nero, il grande pubblico a cui comunque Branagh si rivolge, al cinema con Assassino sul Nilo, non a caso, avrebbe paura di un film in bianco e nero, allora lui glielo comincia a colori, così si sistemano tranquilli sulla sedia. E poi improvvisamente glielo riporta con il movimento della memoria indietro e quindi alla stagione, all'epoca del bianco e nero. E poi, nel dubbio che il suo spettatore possa smarrirsi, mette più di una volta dentro il racconto dell'altro colore. E questa volta è il colore dei film che un bambino di allora vedeva a colori andando al cinema. Lui recupera spezzoni di pellicola, di vecchi film, di quelli che i bambini avevano voglia di andare a vedere al cinema, e te li mette là, per dire guarda che tu stai vedendo una roba in bianco e nero, ma non ti preoccupare, io lo so che cos'è il colore, lo so che ti piace il colore, ti piace come piace a un bambino del 1969 il colore, e quindi te lo metto dentro. Ma contemporaneamente fa un'operazione tutta dedicata agli amanti di cinema, molto cinefila, perché c'è un pacco di cinema hollywoodiano, essenzialmente film western, che passano sui invece monoscopi, sui televisori, allora quelli sono film in bianco e nero che noi vediamo in bianco e nero. Mezzogiorno di fuoco, uno per tutti. C'è anche l'omaggio al teatro con un momento di spettacolo in sala a colori. È certo, perché comunque c'è questo ragionamento che è molto sottile, molto bello, molto divertente. Cioè, la nostra retina come guarda? Da un lato, con gli occhi della memoria, quel tempo è un tempo in bianco e nero, ma nel momento in cui tu ci stai dentro, beh, vedevi a colori. Ecco perché dico che è anche abilmente ruffiano, se vuoi, ed è uno dei grandi pregi di Branagh. Non si vergogna mai di usare tutti i mezzi che ha per ottenere il risultato che vuole. E se il risultato deve essere di allargare un tipo di film che non può essere, non vuole essere un film di Terrence Davis, non vuole essere un film social marginale, ma vuole andare a conquistare, per esempio, i votanti dell'Oscar, mi sembra che ci stia riuscendo, beh allora bisogna essere un po' ruffiani. Aggiungo che c'è un bambino, una mamma e due nonni notevoli. Strepitosi. Allora, se ne parla spesso, no? Che cosa vuol dire saper far recitare i bambini? È il segno che sei un grande regista perché riesci a far recitare qualcuno che non ha una preparazione specifica? Ok, è una prova durissima recitare con i bambini, ma ci sono autori che hanno proprio un'empatia umana, personale, che funziona con i ragazzini. I ragazzini si fidano e sentono il regista, noi abbiamo lo storico esempio di Luigi Comencini in Italia, e il regista si fida di loro. Però se dovessi dire la cosa che mi ha invece colpito di più, anche per la straordinaria bravura degli attori, sono i nonni invece, perché danno una profondità generazionale a tutto il racconto. E cioè tu hai un arco della vita che si consuma lì dentro e ognuno dei personaggi, e questa è una delle grandi bellezze del film, è lavorato, non è messo lì come una figurina. Non è che è tutto un film di bambini, manco per niente. Non è nemmeno, nonostante siano due bellissimi attori, un film di giovani genitori con un sacco di problemi, di debiti da pagare, di paura dello scontro fisico e dello scontro sociale e ufficialmente religioso che dilania la via in cui vive la famiglia del piccolo protagonista, ma i nonni ti danno invece una profondità diversa, sono due attori memorabili. Il film Belfast di Kenneth Branagh al cinema da giovedì 24 febbraio 2022, un saluto e un ringraziamento a Giorgio Gosetti della Casa del Cinema. Chiunque si diverta, scusa la postilla, a vedere il film in versione originale con i sottotitoli, potrebbe pure divertirsi perché c'è una grande attenzione agli accenti irlandesi. Branagh lo è e la sua compagnia d'attori lo rispetta. Un abbraccio, Giorgio. Grazie. Con Giovanni Spagnoletti della rivista Close Up per presentare la rassegna Sopravvissuti 2022 al Cinema delle Province di Roma dal 2 al 31 marzo 2022. Ben trovato! Ciao mio caro, come va? Tutto bene? Bene, dai, non ci lamentiamo, esatto. Anche se le sale sono in sofferenza. Sì, le sale sono in sofferenza, noi abbiamo provato a fare questa piccola rassegna, non ci aspettavamo che Putin decidesse di fare quello che ha fatto, per cui siamo sempre più sopravvissuti nel 2022. Appunto, la rassegna era un po' ironica, avevamo pensata proprio riguardo a 2022 I Sopravvissuti, un film di ben mezzo secolo fa, dice del 73, del regista americano Richard Fleischer, che ci aveva dato appunto il destro a ripensare un po' ai tantissimi film di fantasy, di fantascienza e via dicendo, che parlano appunto del destino dell'umanità. Appunto, siamo nel 2022. Diciamo che questa piccola rassegna è un omaggio anche al cinema delle province, che è un cinema parrocchiale, che però ha un suo bel pubblico in tutta la zona, dall'università fino a Piazza Bologna. Abbiamo pensato appunto insieme al cinema delle province a provare a fare questo piccolo esperimento di ricineclubizzare un pochino una sala, che è una sala di programmazione con il suo bel pubblico. Questa è stata l'idea di fondo su cui abbiamo lavorato. Chiaramente i titoli potevano essere 30-40 volte di più. Abbiamo scelto questi per una serie di motivi, perché alcuni sono più recenti, che ci sono piaciuti e che però sono andati non particolarmente bene, non sono usciti come il film d'apertura, che è La terra dei figli di Claudio Cupellini, che è uscito così a luglio dell'anno scorso senza grande interesse, ed è un piccolo esperimento di cinema italiano anche molto curioso, con un bel cast. Tra l'altro, a presentare la rassegna, che si aprirà proprio con La terra dei figli, avremo la protagonista Maria Roveran, che presenterà il film. Dicevo un bel cast perché comprende appunto, tra gli altri, a parte i due protagonisti giovani che sono la Roveran e il Leon della Vallée, sono Paolo Piero Bon, Valeria Golino, Valerio Mastrandrea, totalmente irriconoscibile, un cattivuccio Fabrizio Ferracane, eccetera. Insomma, siamo abbastanza contenti e speriamo di avere un minimo di riscontro col pubblico. Vedremo un po' se riusciamo in qualche maniera a riportare con un tipo di programmazione un pochino diversa anche in sala, alternando film del passato, appunto come il film da cui ci siamo ispirati, La Rassegna, che è l'ultimo che chiude appunto il mese giovedì 31 marzo. Sono quattro mercoledì da leoni, li abbiamo intitolati così, con film appunto che sono un paio di film americani, un film italiano, un film coreano, che è Snowpiercer, che è molto bello, che è uno dei miei preferiti, poi un film francese abbastanza recente, che è L'ultimo giorno sulla terra di Romain Quirot, che insomma così è uscito, ma insomma è stato poco visto, quindi recuperi, diciamo così, di qualche film recente non molto visto e di alcuni classici, tipo appunto 2022 Sopravvissuti o anche Snowpiercer, no? Che sono appunto dei titoli abbastanza classici. Poi ovviamente c'è anche La strada, The Road, dal romanzo appunto premio Pulitzer omonimo di Cormac McCarthy. Insomma, siamo abbastanza contenti, via! Ci saranno anche delle presentazioni o momenti di incontro dopo la proiezione? No, faremo noi della rivista e dell'associazione Close Up delle presentazioni dei film. Ovviamente abbiamo l'unico film italiano, appunto, è accompagnato dalla protagonista Maria Roveran. Gli altri faremo delle brevi presentazioni noi all'inizio e poi eventualmente, se qualcuno avrà voglia, alla fine della proiezione. Insomma, anche ristabilire un contatto con il pubblico che non sia solo e unicamente di acquistare un biglietto e entrare, vedere un film e uscire, andarsene via. Insomma, l'idea è quella anche un po' di recuperare una comunicazione cinematografica che è stata molto importante in anni passati, che un po' si era persa e che noi vorremmo in qualche maniera cercare di ristabilire un pochino con questo esperimento. Giovanni, ci lasci anche dei riferimenti web per i dettagli del programma? Qualcuno, se vuole vedere La rassegna, si mette in contatto telematico con Close Up. Su Close Up c'è una piccola spiegazione, una notizia con tutti gli appuntamenti. La rassegna Sopravvissuti 2022 a Roma, al Cinema delle Province, dal 2 al 31 marzo 2022. Un saluto e un ringraziamento a Giovanni Spagnoletti della rivista Close Up, che organizza. A presto! Ciao, grazie, ciao ciao. Con Marco Palladini, autore del film Fratello dei Cani, Pasolini e l'odore della fine, programmato in occasione del centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, a Roma, al Teatro Fuis, sabato 5 marzo 2022, a seguire l'incontro dal titolo L'eredità artistica, culturale e intellettuale di Pasolini. Marco, ben trovato. Grazie a te, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Andorossa. Progetto articolato, una celebrazione con un paio di momenti, ce ne parli? Abbiamo pensato insieme a Yolanda Lagaruba, che con me appunto ha realizzato il film 9 anni fa, di rilanciarlo in questa occasione per il centenario della nascita di Pasolini, che cade esattamente il 5 marzo. Quindi ci sarà appunto una proiezione pubblica e a cui poi seguirà un incontro che ho voluto personalmente con appunto alcune personalità appunto per parlare in questa importante occasione, in questo centenario, dell'eredità che ci ha lasciato appunto Pierpaolo Pasolini. Ci saranno con me il poeta Marco Caporali, il regista e attore teatrale Pippo Di Marca, la critica cinematografica Desiree Massaroni e Attilio Scarpellini, che è un importante saggista, critico teatrale, ultimamente anche regista di teatro. Quindi diciamo è un quartetto ben provveduto, ma sarà più che altro una chiacchierata per capire che cosa resta di Pasolini, che in vita, io l'ho sottolineato più volte, è stata una figura, si sa, molto anche altamente divisiva, sia a destra ma anche a sinistra. Nella sinistra, diciamo, politica e culturale, Pasolini ha avuto tanti avversari, detrattori, antagonisti. Io credo per l'appunto che, però c'è un'altra cosa che credo io, che ho sottolineato anche questa più volte, che mi ha spinto anche a lavorare, a fare più lavori teatrali su Pasolini e a realizzare anche questo film, che Pasolini è stata l'ultima importante voce poetica che si è imposta in quella che io chiamo la verbosfera pubblica del nostro paese. Dopo il suo orrendo assassinio nel novembre del 1975, diciamo che tutte le voci poetiche si sono spente, anche voci di poeti importanti, i primi che mi vengono in mente perché impegnati anche in politica, una denuncia per esempio appunto dei disastri ecologici, sono Edoardo Sanguinetti e Zanzotto, Andrea Zanzotto, di cui c'è appena stato appunto l'anno scorso il centenario della nascita, anche lì è quasi un coetaneo appunto Zanzotto di Pasolini, anche la loro voce era retrocessa a rumore di fondo, non l'ascoltava più nessuno, e questo per tanti motivi, in primis perché c'è stata quella che Pasolini stesso aveva in qualche modo anticipato, la mutazione antropologica, che è un concetto, sembra astratto, ma in realtà molto concreto, che ha significato nei fatti proprio un trasferimento del centro dei valori dalla cultura alla comunicazione. E quindi appunto gli intellettuali, i poeti, gli scrittori contano sempre meno, il pensiero critico non ha ruolo, oggi ci sono figure incredibili, insomma, no, che svolgono il ruolo di opinion leader in questo paese, persino la Ferragni, posso dire, con 23 milioni di follower è un opinion leader oggi nello spazio-tempo contemporaneo, quindi capiamo bene la distanza che c'è. E poi perché comunque Pasolini nei suoi anni 60-70 era comunque, pur essendo una persona di grande spessore, un grande intellettuale, come si diceva al tempo, era un grande comunicatore. Lui sapeva semplificare, arrivare subito al cuore dei problemi, porre in maniera anche provocatoria una serie appunto di domande, una serie di interrogativi, una serie appunto di posizioni polemiche, e questo generava inevitabilmente appunto quello che dicevo prima, appunto una divisione, una spaccatura anche di opinioni, ma tutto questo in qualche modo muoveva i cervelli, impediva alle persone appunto di ragionare sempre secondo automatismi conformistici. Ecco, questo ruolo di provocazione, di continuo incitamento a pensare criticamente sul reale, che non è mai pur l'appunto razionale, come vediamo anche in questo momento, no? Terribile, dico, insomma, con questa guerra nel cuore dell'Europa. Ecco, tutta questa funzione di Pasolini, insomma, io l'ho pienamente accolta, ho cercato di trasmetterla attraverso appunto le opere che ho fatto su di lui, ed è presente anche in questo film, che è diviso per esempio in 5 capitoli: il tempo del viandante, il tempo del padre, il tempo della madre, il tempo del figlio, il tempo della morte, ed è una sorta appunto di sintesi di un percorso poetico, culturale, intellettuale, ma anche esistenziale di Pasolini, vedendo appunto nei rapporti anche familiari di Pasolini un centro molto vivo, molto forte delle sue contraddizioni, il rapporto col padre militare sostanzialmente fascista, il rapporto con la madre che in qualche modo ha messo allo scoperto anche la sua omosessualità e quindi un senso di colpa di cui lui non si è mai realmente liberato, lui non ha avuto figlio, però ha considerato la generazione, diciamo, del 68, i giovani del 68, dei suoi figli, che lo spodestavano dal suo ruolo che si era in qualche modo scelto di figlio a vita. Io sottolineo sempre appunto questa cosa, appunto Pasolini ha vissuto in realtà per tutta la sua vita, fino a quando è morta a 53 anni, sempre con la madre, non si è mai staccato dal nido materno, e anche questa per l'appunto è una spia che fa capire appunto la peculiarità psicoesistenziale appunto di un poeta come lui. E poi il rapporto con la morte, perché questa è una, non soltanto mia impressione personale, lui andava alla ricerca in qualche modo di un'occasione di martirio, si è messo più e più volte a rischio nelle sue cacce notturne con i ragazzi di vita, con i marchettari che frequentava. Ci sono testimonianze, in primis quella di Vincenzo Cerami, che è stato appunto suo allievo e poi ha sposato Graziella Chiarcossi, la nipote di Pasolini. Beh, Cerami ci ha raccontato appunto che Pasolini spesso e volentieri ritornava all'alba tubefatto, pieno di ferite, perché aveva un rapporto, anche questo singolare, dico, insomma, no, di tipo sadomasochistico appunto con la pratica omosessuale. Ecco, mi è capitato di scrivere appunto, ho paragonato una volta Pasolini a Jean Genet, altro grande autore francese omosessuale molto noto, e Genet per esempio in Notre Dame des Fleurs vide appunto gli omosessuali in due grandi macro categorie, le dam, cioè le dame, le donne, dico insomma, che sarebbe il maschio passivo, e quelli che lui chiamava le mec, non c'è un equivalente, è stato tradotto per esempio al giorno proprio come il mecco, ma insomma è una traduzione in realtà impropria. Le mec, diciamo, sarebbe appunto il maschio omosessuale attivo, dico insomma, nel rapporto omoerotico. Ecco, Pasolini dentro queste categorizzazioni di Jean Genet era appunto la dama, e quindi subiva. Questo è molto chiaro, per esempio, in un capitolo molto bello appunto del suo, questo romanzo postumo Petrolio, quando appunto in questo capitolo si chiama Il Pratone della Casilina, lui descrive in maniera straordinaria, lussureggiante, quasi barocca, un'orgia omoerotica in una radura periferica di Roma, e ci sono appunto queste descrizioni tra Ieri Omnibus Bosch e Caravaggio, e il protagonista, che è chiaramente appunto un alter ego appunto di Pasolini, è una sorta appunto di maschio femmina, no, che subisce tutti gli oltraggi possibili e immaginabili. È un testo di una trentina di pagine straordinario, dove per la prima volta forse Pasolini si può dire che faccia letterariamente coming out, venga fuori appunto la sua visione del rapporto omoerotico come un rapporto in realtà infernale. Ecco, lui tutte le notti andava alla ricerca per l'appunto di un inferno, e in questo inferno alla fine è come se la sua morte è stato un orrendo assassinio, probabilmente dovuto appunto a una banda di delinquenti comuni, di picchiatori fascisti, mandati con la committenza non sappiamo bene di chi, e però è stato anche secondo me un suicidio per interposta persona, insomma per interposti corpi, come se lo avesse in qualche modo cercato. Persino anche il suo amico Alberto Morave, con cui ha fatto tantissimi viaggi in giro per il mondo, raccontava che ne so, che in alcuni viaggi in Africa alle 9 di sera cascasse il mondo, anche quando stavano appunto a cena magari con personalità locali, con importanti intellettuali o scrittori africani, così Pasolini a un certo punto spariva e non si sapeva dove andava a finire, e tornava soltanto in piena notte, dico insomma, non, attraverso appunto avventure oscure molto pericolose. E appunto la personalità di Pierpaolo a me è sempre interessato perché è profondamente contraddittoria, tutta la sua vita, anche tutta la sua opera è nel segno della contraddizione, ed è questo forse io credo che l'abbia mantenuto vivo fino a noi. Sono passati ormai quasi 47 anni dalla morte e rimane appunto una delle figure più vivide, più significative del Novecento. Il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, edizione del film Fratello dei Cani, Pasolini e l'odore della fine, sì, della regia di Yolanda La Carruba, e a seguire l'incontro L'eredità artistica, culturale e intellettuale di Pasolini a Roma al Teatro Fuit sabato 5 marzo 2022. Posso dire anche l'indirizzo, sì, è Lungotevere dei Mellini 33, per chi vuole venire sarà benvenuto, credo che sarà un'occasione appunto anche di discussione, anche di intervento culturale importante. Un saluto e un ringraziamento all'autore Marco Palladini. A presto. Grazie Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Abbracci. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.